Terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. E siamo proprio alla fine del romanzo. È un vero e proprio epilogo a 7 anni di distanza dagli ultimi eventi narrati. Siamo infatti ormai nel 1820. È la sera del 5 dicembre, giorno in cui si festeggia San Nicola. E siamo a Lisiagori, dove adesso vivono, dopo il loro matrimonio, Nikolai Rostov e la principessina Maria Balkonskaya, adesso contessa Rostova. Con loro vive anche il giovane figlio del defunto Andrei, Nikolenka. E Natasha è loro ospite. Si aspetta Pierre, che arriva da Pietroburgo, carico di regali per tutti. Il giovane Nikolenka è tutto eccitato dall'arrivo di Pierre e, contro il volere di Nikolai, si attarda a conversare con gli adulti. L'argomento è la politica e questo naturalmente non manca di suscitare discussioni. Quando, finita la cena, Nikolai, dopo essersi spogliato nel suo studio e avere dato i suoi ordini all'amministratore che l'aveva aspettato, venne in veste da camera nella stanza da letto, trovò la moglie ancora alla scrivania. Stava scrivendo qualcosa. «Che cosa scrivi, Marie?» domandò Nikolai. La contessa Maria arrossì. Aveva paura che ciò che stava scrivendo non fosse capito e approvato dal marito. Avrebbe voluto nascondergli ciò che scriveva, ma nello stesso tempo era contenta d'essere stata sorpresa e di dovergli parlare. «È il mio diario, Nicolà», disse, porgendogli un quaderno turchino scritto con la sua ferma e grossa scrittura. «Un diario», disse Nikolai con una tinta di canzonatura e prese in mano il quaderno. C'era scritto in francese: 4 dicembre. Stamane Andriusha, il figlio maggiore, quando si è svegliato non si voleva vestire e Mademoiselle Louise mi ha fatta chiamare. Stava facendo un capriccio e s'era ostinato. Mi sono provata a sgridarlo, ma non si è che irritato di più. Allora mi sono assunta io la cosa, l'ho lasciato stare e con la bambinaia mi sono messa ad alzare gli altri bambini e a lui ho detto che non gli volevo bene. Per un pezzo è stato zitto, come attonito. Poi in camicia è corso da me e si è messo a singhiozzare talmente che per un bel po' non mi riusciva di calmarlo. Si vedeva che più di tutto gli rincresceva di avermi fatto dispiacere. Poi, quando la sera gli ho dato il suo bigliettino, di nuovo si è messo a piangere che faceva pena, mentre mi baciava. Con la dolcezza si ottiene tutto da lui. «Che cos'è questo bigliettino?» domandò Nikolai. «Ho cominciato a dare la sera ai più grandi dei bigliettini con la condotta». Nikolai guardò quegli occhi luminosi che lo fissavano e seguitò a sfogliare il quaderno e a leggere. Nel diario era scritto tutto ciò che concerneva la vita dei bambini, tutto ciò che alla madre sembrava importante perché esprimeva il carattere dei suoi figli oppure suggeriva pensieri generali sui metodi di educazione. Nikolai lasciò il libriccino e guardò sua moglie. Gli occhi luminosi lo guardavano interrogativamente. Approvava o non approvava il diario? Non ci poteva essere dubbio, non soltanto sull'approvazione, ma sull'entusiasmo di Nikolai per la moglie. Forse non si sarebbe dovuto farlo con tanta pedanteria, pensava Nikolai, e magari non bisognava farlo affatto, ma questo instancabile, continuo, intimo sforzo che aveva per scopo soltanto il bene morale dei figli lo entusiasmava. Se Nikolai avesse potuto avere coscienza del suo sentimento, avrebbe capito che la base principale del suo saldo, tenero e orgoglioso amore per la moglie era sempre questo senso di ammirazione dinanzi alla sua spiritualità, dinanzi a quell'alto mondo morale quasi inaccessibile per Nikolai, nel quale viveva sempre sua moglie. Egli era fiero di vederla così intelligente e buona, avendo coscienza della sua inferiorità davanti a lei nel mondo dello spirito, e tanto più si rallegrava che, con un'anima come la sua, ella non soltanto gli appartenesse, ma fosse una parte di lui. «L'approvo molto, molto, mia cara», disse egli con aria grave, e dopo un breve silenzio riprese: «Ma io oggi mi sono comportato male. Tu non c'eri nello studio. Abbiamo discusso, Pierre e io mi sono accalorato. Ma è impossibile. È proprio un bambino. Non so che sarebbe di lui se Natasha non lo tenesse a freno. Figurati perché è andato a Pietroburgo. Là hanno formato...» «Sì, lo so», disse la contessa Maria. «Natasha me l'ha raccontato». «Dunque lo sai», proseguì Nikolai, infiammandosi al solo ricordo della discussione. «Mi voleva persuadere che l'obbligo di ogni uomo onesto consiste nell'andare contro il governo, mentre il giuramento e il dovere... Mi rincresce che tu non ci fossi. Tutti mi hanno assalito, anche Denisov e Natasha. Natasha è buffissima. Lei lo tiene sotto la sua pantofola, ma appena si comincia a ragionare non ha una parola che sia sua. Non fa che ripetere le parole di lui, soggiunse Nikolai, cedendo a quell'invincibile sentimento che ci spinge a giudicare le persone più intime e care. Nikolai dimenticava che quello che egli diceva di Natasha si sarebbe potuto dire parola per parola di lui nei suoi rapporti con sua moglie. «Sì, me ne sono accorta», disse la contessa Maria. «Quando gli ho detto che il dovere e il giuramento sono al di sopra di tutto, ha cominciato a dimostrarmi Dio sa che. Peccato che tu non ci fossi. Che cosa gli avresti detto? Secondo me hai assolutamente ragione. L'ho detto anche a Natasha. Pierre dice che tutti soffrono, si tormentano, si depravano e che il nostro dovere è di aiutare il prossimo. Naturalmente ha ragione», disse la contessa Maria. «Ma dimentica che noi abbiamo altri obblighi più immediati che Dio stesso ci ha indicati e che possiamo esporre al pericolo noi stessi, ma non i nostri figli». «Ecco, ecco precisamente quello che gli ho detto io», approvò Nikolai, a cui difatti pareva d'avere detto la stessa cosa. «E loro avanti a dire che l'amore del prossimo e il cristianesimo...» E tutto questo dinanzi a Nikolenka, che s'era introdotto nel mio studio e che ha fracassato tutto. «Sai, Nicola, il pensiero di Nikolenka mi tormenta così spesso», disse la contessa Maria. «È un ragazzo così singolare e ho paura di trascurarlo per i figli miei. Qui tutti noi abbiamo dei figli, tutti hanno i genitori e lui non ha nessuno. È sempre solo coi suoi pensieri. Beh, io credo proprio che tu non abbia a rimproverarti nulla nei suoi riguardi. Tutto ciò che può fare la più tenera delle madri per il proprio figlio, tu l'hai fatto e lo fai per lui. E naturalmente ne sono contento. È un bravo ragazzo. Oggi era come fuori di sé ad ascoltare Pierre. Puoi figurarti, stavamo andando a cena. Io guardo, mi ha fatto tutto in bricioli sulla mia scrivania e subito me lo ha detto. Mai gli ho sentito dire una bugia. È un bravo, bravo ragazzo», ripeté Nikolai, a cui in fondo non piaceva Nikolenka, ma in cui voleva sempre riconoscere un bravo ragazzo. «Quest'estate lo condurrò a Pietroburgo», riprese Nikolai. «Eh sì, Pierre è stato sempre e rimarrà un sognatore», proseguì poi, tornando alla conversazione dello studio, che evidentemente lo aveva turbato. «Che mi importa di tutto quello che si fa laggiù? Che mi importava di questo quando mi sono sposato e avevo tanti debiti che mi volevano mettere in prigione e una madre che non lo vedeva e non lo capiva? E poi te, i figli, gli affari. Sto forse per piacere mio dalla mattina alla sera a occuparmi di affari e nel mio ufficio? No, so che debbo lavorare perché mia madre stia tranquilla, per sdebitarmi verso di te e perché i miei figli non diventino dei miserabili come ero io». La contessa Maria ascoltava il marito e capiva tutto ciò che egli le diceva. Sapeva che quando egli pensava così, ad alta voce, a volte le domandava che cosa avesse detto e si irritava quando s'accorgeva che lei pensava ad altro. Ma ella faceva grandi sforzi a questo scopo, perché non si interessava punto di ciò che egli le diceva. Lo guardava e non era che pensasse a qualcos'altro, ma sentiva qualcos'altro. Sentiva un devoto, tenero amore per quell'uomo che mai avrebbe capito ciò che ella capiva, e pareva che per questo ella lo amasse più fortemente, con una tinta di appassionata tenerezza. Oltre a questo sentimento che l'assorbiva tutta e le impediva di entrare nei particolari dei progetti di suo marito, nella sua mente guizzavano pensieri che non avevano nulla di comune con ciò che egli diceva. Ella pensava al nipote e ai suoi figli, paragonava i suoi sentimenti verso di loro e con tristezza si accorgeva che nel suo sentimento verso Nikolenka mancava qualche cosa. A volte le veniva l'idea che questa differenza provenisse dall'età, ma sentiva di essere in colpa dinanzi a lui e dentro di sé si prometteva di correggersi e di fare l'impossibile, cioè di amare in questa vita suo marito, i suoi figli e Nikolenka e tutti i suoi simili come Cristo amava l'umanità. L'anima della contessa Maria aspirava sempre all'infinito, all'eterno, al perfetto, e perciò non poteva mai essere tranquilla. Sul viso le appariva l'espressione severa di una nascosta sofferenza dell'anima che sentiva l'oppressione del corpo. Nikolai la guardò. «Dio mio, che cosa sarebbe di noi se ella morisse?» «Mi viene sempre quest'idea quando ha questo viso», pensò, e messosi davanti alle immagini, si mise a recitare le preghiere della sera. Anche Natascia, rimasta sola col marito, si mise a discorrere come si fa solamente fra marito e moglie, cioè comunicando con straordinaria chiarezza e rapidità ciò che si pensa, per una via contraria a tutte le regole della logica, senza giudizi, né sillogismi, né deduzioni, ma in modo tutto affatto particolare. Natascia era talmente abituata a parlare col marito in questo modo che per lei il più sicuro segno che qualcosa non andava fra lei e il marito era l'andamento logico delle idee di Pierre. Quando egli cominciava a dimostrare, a parlare con ragionevolezza, con calma, e lei, trascinata dal suo esempio, si metteva a fare lo stesso, sapeva che ciò sarebbe finito senza meno con un litigio. Dal momento che erano restati soli e Natascia gli si era avvicinata piano piano con gli occhi spalancati, pieni di felicità, e ad un tratto, prendendogli la testa con rapida mossa, se l'era stretta al petto e aveva detto: «Ora sei tutto, tutto mio, mio, non te ne andrai più». Da quel momento cominciò quella conversazione contraria a tutte le leggi della logica, non foss'altro perché si parlava nel medesimo tempo di cose assolutamente diverse. Questa molteplicità di soggetti non soltanto non impediva loro di capirsi chiaramente, ma era, al contrario, il più certo indizio che si capivano completamente tra loro. Natascia raccontava a Pierre della vita quotidiana di suo fratello, come per lei, quando non c'era il marito, fosse un soffrire e non un vivere, come avesse posto a Maria un'affezione ancora più grande e come Maria, sotto tutti i rapporti, fosse migliore di lei. Dicendo questo, Natascia riconosceva sinceramente la superiorità di Maria, ma nello stesso tempo pretendeva che Pierre la preferisse a Maria e a tutte le altre donne, e che ora di nuovo, specialmente dopo che aveva veduto molte donne a Pietroburgo, glielo ripetesse. Pierre, rispondendo alle parole di Natascia, le raccontò come gli fosse insopportabile a Pietroburgo andare alle serate e ai pranzi dove c'erano signore. «Ho proprio disimparato a parlare con le signore», disse. «È semplicemente una noia». Natascia lo guardò fisso e proseguì. «Maria è così deliziosa», disse. «Come capisce i bambini? Pare che non veda che la loro anima. Ieri, per esempio, Mitenka cominciò a fare un capriccio. Ma come somiglia al padre?» interruppe Pierre. Natascia capì perché egli aveva fatto questa osservazione sulla somiglianza di Mitenka con Nikolai. Gli dispiaceva il ricordo della sua discussione col cognato e avrebbe voluto sapere l'opinione di Natascia a questo proposito. «Nikolai dice che noi non dobbiamo pensare. Ma io non posso», disse Pierre. «Senza parlare poi dell'impressione che ho avuta a Pietroburgo, a te lo posso dire, che senza di me andava tutto a catafascio e ognuno tirava l'acqua al suo mulino. Ma mi è riuscito di metterli tutti d'accordo. E poi la mia idea è così semplice e chiara. Io non dico che si debba opporsi alla tal cosa o alla tal altra. Noi possiamo anche sbagliare. Ma dico, si prendano per la mano tutti quelli che amano il bene e ci sia una sola bandiera, la virtù attiva». Natascia non dubitava che l'idea di Pierre fosse una grande idea, ma una cosa la sconcertava. Era che egli fosse suo marito. «Possibile che un uomo così importante, così utile alla società, sia nello stesso tempo mio marito? Com'è potuto accadere questo?» Avrebbe voluto esporgli il suo dubbio. «Chi sono quelle persone che potrebbero stabilire se effettivamente lui è il più intelligente di tutti?» si domandava e passava in rassegna nella sua mente le persone che Pierre rispettava di più. «Sai che cosa penso?» disse. «Penso a Platon Karataev. Che direbbe lui? Ti approverebbe ora?» Pierre non fu affatto sorpreso da questa domanda. Aveva capito il corso dei pensieri di sua moglie. «Io ti voglio tremendamente bene», disse ad un tratto Natascia. «Tremendamente, tremendamente». «No, no, non mi approverebbe», disse Pierre, dopo aver pensato ancora un po'. «Quello che approverebbe è la nostra vita familiare. Desiderava tanto di vedere dappertutto bellezza, felicità, pace, e io gli avrei mostrato con orgoglio noi altri. Ma tu dici l'assenza. Non puoi capire che sentimento particolare io abbia per te dopo un'assenza». «Eccoci da capo», cominciò Natascia. «Ma no, non è questo. Io non smetto mai di amarti. E amare di più non è possibile. Ma questa è una cosa particolare. Ma sì...» Non finì la frase, perché i loro sguardi che si incontrarono dissero tutto il resto. Intanto giù nell'appartamento di Nikolenka ardeva come sempre una lampada da notte. Il ragazzo aveva paura del buio e non avevano potuto correggerlo di questo difetto. Il precettore Dessal dormiva col capo in alto, sui suoi quattro guanciali e il suo naso romano emetteva i suoni uniformi di chi russa. Nikolenka, svegliatosi allora, coperto d'un sudore freddo, con gli occhi spalancati, era seduto sul letto e guardava dinanzi a sé. Un sogno tremendo lo aveva svegliato. Si era veduto in sogno insieme con Pierre, con degli elmi in capo, come erano disegnati nell'edizione di Plutarco. Con lo zio Pierre, egli camminava davanti a un enorme esercito. Questo esercito era composto di una quantità di bianche linee oblique che riempivano l'aria, simili a quelle tele di ragno che svolazzano in autunno e che Dessal chiamava le file de la Vierge. Innanzi a tutti era la gloria, fatta anch'essa come quei fili, ma un poco più compatta. Lui e Pierre volavano leggeri e lieti sempre più vicino alla meta. Ad un tratto i fili che li muovevano avevano cominciato a indebolirsi, a imbrogliarsi, e la situazione era diventata difficile. E lo zio Nikolaj Iljič si era fermato davanti a loro in un atteggiamento minaccioso e severo. «Siete voi che l'avete fatto?» aveva detto, mostrando la ceralacca e le penne spezzate. «Io vi volevo bene, ma Arakcheyev me ne ha dato l'ordine e io ucciderò il primo che muoverà un passo». Nikolenka s'era voltato a guardare Pierre, ma Pierre non c'era più. Pierre era suo padre, il principe Andrei, e suo padre non aveva figura né forma, ma c'era. E vedendolo Nikolenka aveva sentito tutta la debolezza dell'amore. Si era sentito senza forza, senza ossa e come fluido. Il padre lo accarezzava e lo compativa, ma lo zio Nikolaj Iljič si faceva sempre più vicino a loro. Lo spavento aveva preso Nikolenka e s'era svegliato. «Mio padre», pensava. «Mio padre». Benché in casa ci fossero due ritratti rassomiglianti del principe Andrei, Nikolenka non se lo raffigurava mai in forma umana. «Mio padre è stato con me e mi ha accarezzato. Mi ha approvato. Ha approvato lo zio Pierre. Qualunque cosa dica, io la farò». Muzio Scevola si bruciò la mano. «Ma perché nella vita non potrà accadere anche a me qualcosa di simile? Lo so, vogliono che io studi, e io studierò. Ma un bel giorno avrò finito, e allora lo farò. Io prego Dio soltanto di una cosa, che mi accada quello che accadeva agli eroi di Plutarco, e farò lo stesso, farò meglio. Tutti lo sapranno, tutti mi ameranno, tutti mi ammireranno». E ad un tratto Nikolenka sentì i singhiozzi che gli riempivano il petto e si mise a piangere. Si udì la voce di Dessal. «Et vous indisposé?» No, rispose Nikolenka e si abbassò sul guanciale. «È buono e bravo e gli voglio bene», pensò riferendosi a Dessal. «Ma lo zio Pierre, oh, che uomo prodigioso! E mio padre? Ah, mio padre, sì, farò cose delle quali anche lui sarà contento». Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it